E ragazzi, bentornati alla Regina. Fantastica questa settimana assieme, ci ritroviamo alla tavola. Voi venite su ilbac.it per commentare questa trasmissione e per ascoltare anche le altre, dove trovate tutto, anche i video Propriamente che non c'è da un tornati. poco, e ringraziamo tra poco quelli che ci stanno seguendo nella versione video. Adesso ci ritroviamo dopo un piccolo spazio per la sigla. Andrea, io sto provando di questo modo. No, cosa La Ma cosa tappa. fanno? Gli involtini Sì, primavera. montarò di soia e Posso provare? Cioè, io posso per guardarli, non per mangiarli. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Bentornati alla cena dei regini, e questo è lo spazio dedicato alle notizie dall'House. È successo di tutto anche questa settimana, perché la vita all'House ovviamente non si ferma mai. È stata una settimana importante per il contatto avuto con la stampa. Ho avuto la scellerata idea di mandare una introduzione, diciamo, del nuovo regolamento ARS alla stampa, a qualche sito di gioco di ruolo e via dicendo, ed è piaciuta veramente, veramente molto. Il che ha sorpreso anche me, devo dire. Ho detto: guarda, pensa tu, quando si divertivano non era solo una simpatica amicizia, però effettivamente il regolamento funziona. Io sto migliorando alcune cose anche in base ai feedback dati da queste persone, che cordialmente mi hanno risposto, e quindi è bello. Anzi, ringrazierei proprio tutti quelli che stanno ancora giocando in queste ore all'Ars e lo stanno provando. Il regolamento è molto semplice, quindi piace parecchio a tutti, e poi tra l'altro ha coinvolto anche siti che trattano il gioco da tavolo, non di ruolo. Da tavolo? Da tavolo, anche loro si sono divertiti parecchio, perché quindi comunque stai portando avanti certo, per la conquista del mondo, altrimenti detta Ars Es. Dobbiamo usare i nomi in codice qua, ragazzi, altrimenti nomi in codice. Non si va. Per i nomi degli eventi, tanto il codice non è bug. ci arriviamo tra poco, ragazzi. Nomi in codice è conquista del mondo o Ars Es? Forse lo scoprirete vivendo. A maggio, come ho detto in anteprima alla stampa, inizierà il mese del workaround, quindi tutti potranno collaborare e dare le loro idee per migliorare l'ARS e renderlo ancora un regolamento migliore, oppure espanderlo e via dicendo. Già c'è qualche idea interessante ai blocchi di partenza, quindi sarà abbastanza divertente vedere come la gente si confronta comunque col nuovo manuale, comunque le idee che andrà a dare. E poi, ragazzi, aprile. Quali eventi mancano ad aprile? Io penso che, a parte la serata... Ma infatti, come parlavamo prima, che tu hai detto: organizziamo un giorno per costruire le armi, una domenica. E io: ok, ma questa domenica c'è questo, questa domenica c'è questo. Ragazzi, abbiamo l'unico vero problema è che abbiamo bisogno di altre 2 settimane in aprile. Non lo so a chi si rivolge. Non so, a chi potevo rubare il tempo? Al Supremo. Se qualcuno... Al Supremo però inizieremo a rivolgerci proprio il 10, giovedì, con l'evento Tu. Hai visto la luce? Panda, hai visto la luce? Buonasera. Questi sono altri generi. La luce, perché è una serata dedicata all'ispirazione, al contratto tra il sacro e il profano. La band che verrà a suonare è molto particolare, che verrà da fuori, che si confronterà molto artisticamente con una band locale di ragazzi che sono venuti ad allietare un mio caffè l'altro giorno. Una cosa bellissima, una sorpresa bellissima. Quindi giovedì 10 tu hai visto la luce. Alle 20 apriamo i cancelli, alle 21 si suona. Due concerti, una compagnia. Che cosa fantastica, cioè io questo bacco lo adotto, perché mi adotto da povere. Poi alle 13. Alle 13. Vedi, perché dobbiamo velocizzare. Dobbiamo fare più eventi serata. Il 13 alle 20, Mystery Night. Come si costruisce una bomba atomica? Te lo sei sempre chiesto, adesso puoi risolvere. Per me detto che l'FBI prende un po'. Ti prenota una persona e ti in nero all'improvviso, contatti. Non ti pago la cosa. No, no, no. Ragazzi, ho già avuto misteriose prenotazioni dal Medio Oriente, ma... Buono! Non lo so. Ah, boh, ma noi aperti a tutti. Mi sa che devi fare come uscire da una cella. Boom! Come si costruisce la bomba atomica? Una serata, la Mystery Night, in cui le persone dovranno confrontarsi con un mistero e risolverlo durante la serata. È un live molto particolare perché comunque è in ambientazione moderna, molto rilassato, però è carino andare a risolvere questo intrigo che sarà molto particolare. E quindi alla fine, essendo in chiave moderna, non c'è bisogno di vestiti o comunque di equipaggiamento particolare. No, no. Quindi un vestito vieni in tag, se vuoi metterti il frac metti, altrimenti... niente burka, pazienza, non si sa mai. Comunque le 72 vergini non sono incluse. Giusto, giusto dirlo così, ragazzi. Poi il giorno 21, la Pasquetta, che è la Pasquetta con la L e la P maiuscola, perché sarà una giornata veramente straordinaria di musica, carne, verdure grigliate, la qualunque carne, quindi... birra grigliata, poi carne, carne. Birra, birra grigliata. Fermateli, pazzi, pazzi. Il 24, altro evento live, come si uccide un drago? Perché giustamente questo mese, essendo introduttivo propedeutico all'attività dell'ARS, bisogna dare delle nozioni di base. Oh, quindi nozioni di base. E tu gli metti davanti al drago. Come bomba atomica, come si uccide un drago? Come si costruisce? Sono legate. Cioè, non si sa, bisogna venire agli eventi e scoprirlo. Magari c'è un fil rouge tra l'antico e il moderno che unisce le due cose. Quindi, come si uccide un drago, ambientazione fantasy medievale, molto bellina, perché comunque le gilde si confronteranno con questa nuova minaccia su Camelot, questa ambientazione che ha già visto di tutto adesso, di più. Anche di più, e sarà carino, si inizia alle 10. Come c'è da dire che comunque chi magari ha paura di non avere l'equipaggiamento, l'abbigliamento adatto, c'è l'autobuff che fornisce... sia tuniche che armi per iniziare. Ma tutti sanno come succede un drago. Meno 2 di 6 la destrezza ed è morto. Ma verranno qua a rinverdire la cosa e soprattutto a farlo dal vivo, perché è diverso. Una cosa è... E tu vedi che lui gli lancia 2 di 6. Tra l'altro ce l'abbiamo il D6. No! Quindi stiamo a tempo. Giorno 29, a chiusura del mese, la cena al buio. La cena... al buio. E questo spaventa anche a me. No, panda, vedrai, andrà tutto bene. Perché vuol dire che al buio i sensi si acquiscono, perché comunque senza la vista tutto è concentrato sugli altri sensi, certo. E si farà una cena dove si deve riconoscere il cibo, avere un nuovo contatto col cibo, col gusto. E l'importante, quindi... tutti rasenti al muro. Non piegate. Sempre, troppa malizia, troppa malizia. Io che sono più canta dei babanini giganti. Sicuramente come non mai. Ragazzi, succederà di tutto e quindi bisogna assolutamente continuare a seguire gli eventi, magari anche partecipare. Il back.it per trovare tutto il calendario. E poi io sto preparando già alcune cosucce per maggio, veramente. Tu non vuoi dormire, back, ragazzi, no. Ok. Guarda, a maggio già io so, gruppo pazzesco, e in più per gli amanti di Guerre Stellari, cioè. Lo sappiamo come l'anno scorso. Il Capitan Kirk. peggio. C'è l'evento, lo Star Wars Day, il 4 marzo. Ogni anno lo festeggiamo, ma quest'anno una sorpresa. Ah, mangio il panda se non venite. Mangio il panda se non venite. No, ce la guarda, l'abbiamo già cotto. Ragazzi, quindi venite. Voi non la vedete, ma quella è la gamba di panda. Questa era la gamba, l'abbiamo cotta e siamo pronti per... partire, ci troviamo subito dopo una piccola pausa musicale, a tra poco. passion for my land, the arm for my hand. I am yours without command. I will always take a stand for me and you. I am true and will never, ever, ever try to make you blue. And if I do, can we forgive and forget? Can we ignore the upset? Cause I can promise you that life is short but beautiful. And if we connect and be dutiful about keeping our words full of love, keeping our actions consistently above and beyond, rising at dawn to make sure that you're still there and we're still one. Even in death I can feel your stare of pure j'adore. You are mi amor. You made me think that love is what life is for. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm coming home. You are a mirror. You let me play. You got me in a zone. I see my higher self when you are near. And now I never roam. I can loosen my belt. Relax, no fear. A reflection of love, you shine back to me. I am home now, you showed me how. I create a passion and I will follow through, making sure you know I appreciate all that you do. Knowing the problems, they are in our mind. And if we are honest, we will always find peace and joy, health and love. You are a gift from above. There is no doubt on my dependence, but my transcendence was dependent on looking at you with a reverence that I should look at myself with. This was a gift to see divine in you, because it flowered in me. And eternity is not what matters. We may part, but the latter will always be. The universe, you, me, make one, not three. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm coming home. You are a mirror. You let me play. You got me in a zone. I see my higher self when you are near. And now I never run. I can loosen my belt. Relax, no fear. I know I'm strong because you are. Everything in our life reflects back to us just what we are. I will be safe, I will be calm, I'll be productive, creative, and sometimes wrong. But there's no judge, it's all okay. We rewrite our book every day. And when I cry, you dry each eye and make me laugh, but unattached, so that I know it's on me, so I can grow and still be free. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm coming home. You are a mirror. You let me play. You got me in a zone. I see my higher self when you are near. And now I never run. I can loosen my belt. Relax, no fear. Ragazzi, bentornati alla Cine, al consueto angolo delle notizie dalla strada, cosiddetto. Notizie dalla strada quali sono? Quelle che raccattiamo dal web e che commentiamo qui tutti assieme. Innanzitutto una notizia particolare sono questi 30 anni della commercializzazione del primo telefono cellulare, che ai tempi fu un Motorola e costava soltanto $4,000. Ah, una cosa molto accessibile a tutti, alla facciazza tua che ti vergogni dell'iPhone da 600 euro. Questa società giapponese ha creato questo video molto particolare in cui praticamente ha raggruppato tutti i telefoni cellulari storici e li ha messi insieme a farli squillare per creare una colonna sonora, una specie di canzoncina creata da tutti i modelli storici dei cellulari, quindi lo StarTAC, il Nokia 3310, tutte queste cose, queste meraviglie della tecnica sono ritrovate in questo però video. Hanno avuto la pazienza di mettersi là a creare questa cosa. Ma ti immagini a chiamarli singolarmente, cellulari? Per... Certo, ovviamente. Era... Immagina trovare una scheda ancora per il cellulare, quelle tante. Ma infatti, ma secondo me la vera cosa... Addirittura contratti. Contratti. Aspetta, La cosa difficile era ti fa il trovare il caricabatterie giusto per attaccarli tutti, perché c'erano quelle di varie dimensioni, veramente una cosa incredibile da geni del male. Ma il vero genio del male questa settimana è un tizio che si fa chiamare Paz. Paz, non una garanzia. Non a caso, forse di origine napoletana, chi lo sa. Paz ha preso 5.000 esemplari del CD Believe di Justin Bieber, di una famosa comunque catena americana, li ha aperti, gli ha messo il suo CD all'interno e li ha venduti. Quindi immagina, ragazzina 14enne infervorata va a casa convinta di avere il CD di Justin Bieber, invece si ritrova il CD di Paz. No, Paz. Pazzo, deve esagerare così. È geniale. Che cosa? Cioè lui l'ha fatto come pesce d'aprile. Ma è un ottimo. È fantastico, è fantastico. Ora è cercato. Cioè, ma è un'operazione commerciale. Sì, sì, 5.000 CD e adesso è ricercato in 20 stati da 10.000, 10.000 famiglie di ragazzine che lo vogliono menare perché. Ma ogni CD che ha tolto, che ne ha fatto? Spero che la corte di fronte non so se si possono ricordare nell'organico registrabile ce la faranno, ce la farà a registrare, a salvarli, non si sa ragazzi. Una cosa da che è in via di riciclo tra virgolette è un cortometraggio molto particolare, un cortometraggio spagnolo che ha fatto il successo, ha vinto più di 30 premi in giro per il mondo per cortometraggi comunque indipendenti. La particolarità è che il protagonista è Gesù in versione cacciatore di zombie. Quindi questa storia che racconta di il cortometraggio si intitola praticamente C'era una volta a Gerusalemme, in tradotto, è il da questo cortometraggio ha avuto talmente tanto successo che è stato finanziato, autofinanziato un film, il progetto per fare un film. Quindi pensa, vedremo questo personaggio Gesù Cristo a caccia di zombie. Io non posso fare battute. Hai creato il libro sbaglio. E noi entriamo in un territorio un pochino più grande. Seconda possibilità idea che si sta dando, secondo me. A Ponte Rosso! Da Adamo e Eva alle zombie. Un po' come i vampiri che cacciano vampiri. La giustificazione del perché non si capisce ciò che voleva trasmettere. Beh ragazzi, è un messaggio che viene quello comunque che è il secondo film in cui Gesù Cristo rielaborato. Cioè perché prima è stato Gesù Christ Vampire Hunter, guarda questo, il prossimo quale sarà? Ricorda, lei ha 34 di internet. Ragazzi, voglio 30 bip su questa frase. Il prossimo sarà Gesù Cristo Ghostbuster. No, per no, vampiri e zombie forse sarebbe forza con qualcosa tipo stile Cyberpunk dove elimina Cyborg, tipo molto stile. Qualcosa stile anni 80 magari. Stile la Skynet, compagnia bella. Jesus Christ. E tu vedi che vedo questa trasmissione. Ecco. Ma ragazzi, può succedere di tutto, poi le idee si sa, vengono anche nei momenti più difficili. Ad esempio questo ragazzo 19enne, ventenne di Spinea, tipica sì, località di quel posto di Spinea, ragazzi. Ma lo sappiamo, andiamo a giocare. Spinea, la conosciamo tutti. Ridente, famosa per le sue spine. Possiamo cancellare ragazzi, Mestre, è di Mestre Spinea, voglio dire, è chiaro. Bene, ho aggiunto quell'acqua verde, sai che quando passi. Va bene, ma la cosa che fa ridere lo dobbiamo dire adesso, non fate ridere prima. Questo ragazzo ha perso 10.000 euro al casinò. Quindi lui va e perde 10.000 euro e questa cosa già è preoccupante, se non che aveva il problema di dirlo alla fidanzata. E questo era ancora più traumatico per lui della perdita del denaro, tanto che si è giocato questi 10.000 euro, è andato alla fidanzata e si è inventato che aveva subito una rapina. Cioè si è inventato una rapina per giustificare alla fidanzata di aver perso i 10.000 euro. Cara, avevo prelevato 10.000 euro perché ti volevo fare un regalo bellissimo. Cazzo, sono uscito, me l'hanno rubato. E me l'hanno rubato, guarda tu. Quando la vita matrimoniale, o comunque sentimentale, riesce anche a metterti un po' nei guai, perché ovviamente tu è stato denunciato dalla fidanzata per simulazione di reato. Perché voglio dire, guarda, nel mio paese si dice fuori a capo. Quindi, riassumendo, sto tizio in una sera ha perso 10.000 euro, ha inventato un reato e poi ha è finita in gabbia. Ha perso la fidanzata ed è finito in gabbia. Ha fatto poker. È finita in gabbia perché comunque aveva questo piccolo problema, cioè si è inventato. Quando la complicità tra fidanzati non funziona, a volte si vede che c'è questo problema, c'è questo complicativo. Ragazzi, per un fidanzato sfortunato, un uomo, alquanto fortunato, perché comunque lui si chiama Kyle, ha questa sindrome particolare che si chiama di Asperger, questa malattia che praticamente aveva questo disturbo, una sorta di autismo, però lui si è scoperto essere bravissimo a cantare, canta come una rockstar. Cioè, questo ragazzo, con i suoi problemi, eccetera, ha scoperto di avere questa dote naturale che quando tu gli dai in mano un microfono, lui diventa il Vasco Rossi. Magari, no. Infatti. Hai detto una rockstar, che c'è Vasco Rossi? Il Mick Jagger. Mick Jagger. Mi ricordo qualcuno in questa stanza. E tutti non si sa ragazzi, però lui comunque ha tra l'altro ovviamente è diventato testimone ovviamente della musica, musicoterapia, perché comunque pensa ai tuoi guai, però nonostante tutto. Ma la spergere è un dono, una grazia divina. Perché cosa è meraviglioso essere una spergere? Parlaci di questa. Cioè che perché l'autismo ti impone di essere migliore, ti impone di essere qualcosa di astratto, qualcosa che trascende l'essere umano. Allontani da me. È bellissimo questa cosa. Perché non lo so, sta parlando di un'esperienza personale. Campagna a favore dei... Vabbè, ognuno giustamente ha le sue attitudini. Ma perché ne sei uscito quindi? Perché sei uscito se ti piace così tanto? Non è mai uscito, non ne sono mai entrato, sono soltanto un latitante amoroso. Ok. Ragazzi, si chiama questo dispositivo, a proposito di cose incredibili, StoreDot, e promette di caricare il cellulare in meno di un minuto, da 0 a 100. Cazzo, in meno di un minuto. Bisognerebbe. A te sì. Vero, vero. In meno di un minuto. In meno di un minuto questa. Questo marchingegno comunque la prova è stata fatta su un tratto su un Galaxy S3. In meno di un minuto riesce a portare la batteria da 0 a 100. Da 0 a 100 si azzerra, però. Ma la tavola che c'è quel tempo sopra si carica. Ma è fatto con quel laboratorio atomico del dottor Miro. Parlammo circa un mese fa. Sono notizie. Sì, praticamente, siccome adesso sai, c'è di moda che se tu rispondi al telefono col filo attaccato, questo dopo che lo stacchi da questa cadena, un minuto. Va a razzo. Non hai bisogno del filo, però, senza fili. Lo sto facendo. Il dottore originale di Spinello. Sono tutti una città di un paese di geni, proprio di geni, assolutamente. Genio Fuki inventa una nuova ricetta alquanto calorica, ce ne sono tante nel mondo, è stata stilata una classifica dei cibi più calorici, più che fanno ingrassare di più, letteralmente. Ci sono le lasagne e gli hamburger? Quindi le lasagne e l'hamburger ancora no, però al primo posto c'è l'aracae brasiliano, una sorta di fagiolo ripieno di gamberi essiccati, spezie, anacardi, fritto nell'olio. Facciamolo, ragazzi, segnate. Cioè, perché se si mettono a riempire i fagioli? No, è un fagiolo, però è un finger food. Sì, è un finger food. No, come no? Sì, sì. Ah, ma dipende da quanto è che lo stuzzichi, gonfia. Poi puoi metterci la roba, c'è un mio qui. Però, ragazzi, al nono posto, orgoglio italiano a tenere questa classifica, il calzone. Al nono posto il calzone, che comunque ha superato altre cose, però è arrivato al nono posto. Ah, quindi il calzone ancora può tenere aperto. Sì. Il calzone ancora è. Il calzone è vero, vero, bisogna comunque aggiornare le. Sì, come calzone le classi di. Quindi la prossima pietanza da provare, Andrea al forno. No, no, fritto, una bella bocca. Prima al forno e poi lo friggiamo. Perché ma voglio dire. Facciamo metà e metà, poi decidiamo quale parte, però. Sì, ma si carbonizza se entra nel olio. Lo tagli per lungo così. Allora, però lo friggiamo senza olio, finiamo niente nel tuo grasso. Nell'antiaderente, dai. Perfetto. Fritto. Frittole, frittole sempre, ma soprattutto, ragazzi, a concludere questa rassegna di notizie particolari, un murales che sta veramente come dire, concentrando l'attenzione in quel di Roma. Questo murales è apparso nel quartiere di Testaccio, l'idea era di rappresentare questo lupo sulla fiancata di un palazzo, anche abbastanza grande, quindi una bella idea, comunque street art, una cosa carina. Aggressiva, no? Non fosse che non è uscito proprio bene bene, cioè qualche dettagliuccio lo fa assomigliare a un topo, cioè quindi dal lupo sembra un topo, cioè diciamo che qualche idea nel design è andata male. Un posto finito in chiuso, forse ha allungato troppo il caffè mentre faceva, non si sa. Quindi tra l'altro appunto c'è questo problema che di notte fa paura perché sembra, come dicono i locali, un film, la locandina di un film dell'orrore, e in più comunque di giorno fa ridere perché sembra un topo enorme attaccato al palazzo, insomma è una cosa inutile. No, ancora no, però per ora non ci penserà. Ma no, per cambiando per le tre notturne di Roma, tu vedi questo enorme matte di colore con gli occhi e ti guarda. Dai, è carino perché è adagiato qua sul palazzo in una specie di impennata artistica. Effettivamente è bello. Però comunque sembra un po'. Ma poi messo in questo modo, tipo ingabbiato in una scatola. Sì, no, tipo in posizione fetale sta. Però vabbè. Comunque a Roma ha fatto molto discutere però. Questa cosa. Ma l'hai visto anche dal vivo? A Testaccio, sì. L'hai visto anche. E quindi abbiamo la testimonianza diretta. Effettivamente è così osceno come è. È brutto, però dai. Brutto parecchio, quindi sia la street art. È un topo però... mannaro. Bello. Segniamo questa interpretazione che può salvare l'attuale governo, perché voglio dire, dovrà anche provvedere. Ragazzi, torniamo tra poco alla nostra classifica. Adesso un piccolo spazio musicale. Restate lì, il back.it, c'è nel ghiaccio del back.it per commentare questa puntata. Sole. Ragazzi, la cena dei regini, bentornati back.it per ascoltare questa e le precedenti puntate, ma soprattutto per commentare questa puntata. cena@back.it, basta una mail molto semplice, accessibile a tutti, perché adesso la parte della trasmissione che è più desiderata, che è più seguita da tutti, dalle casalinghe di Palizzi sempre, no, dalle ragazze di Colombia, quelle ragazzi, le casalinghe di Palizzi vogliono qualcosa di più, però questa settimana è più seguita dalle casalinghe di Condofuri Marina. abbiamo preso di più quel segnale, dai, mi raccomando, eh. ogni settimana un posto diverso, quelli di Bova sono detto i 10 dieci... questa citazione erudita, 10 invenzioni più inutili della storia. Partiamo dal numero 10, l'essiccatore d'auto. Come funziona? È molto semplice, si innesta sull'auto questa specie di stendipanni portatile e quindi dice: asciugare i vestiti non è mai stato così semplice, perché basta attaccare questo sull'auto, mettere i vestiti, attaccarli sopra e dice andare a fare una passeggiata con l'auto e i vestiti si asciugano. C'è da commentare, vero? Non c'è niente. Perché? Quindi dalla lina nanna del bambino ai panni asciugati. Pensa che bello, con un passeggiato in auto metti a dormire il ragazzino, in più fai questa... mettere le rotelle direttamente all'appendipanni e magari lo usi tipo skateboard. Ragazzi, alla numero 9, un'invenzione veramente complicata anche da gestire, la felpa multipla. Cioè, quando siete in tre volete andare in giro, potete acquistare una felpa che abbia tre paia di braccia. C'è anche la versione doppia o a 4 o 5 persone, veramente per gli amici inseparabili. Per non perdersi, va. No. Vuole, non vuole, ci deve andare a coppia. Andrea, no. Già abbiamo una proposta. Non è a posto. Perché con chi la indosseresti la felpa multipla? Con la... E basta. Non farei anche cucire la finché schiena. Non sono i pantaloni basta. Multipli, stai a posto. Voglio vedere. No, ve la compro. Non so se fare una taglia basta, però ve la compro. Beh, no. Tanto è multipla. No, multipla però. Economica, è Fiat. La devi... Scusa. No. Te la compro. No. dai, te le compriamo in bel colore anche, non è che tu sei meglio. Attacco Wasati! ragazzi andiamo avanti, perché alla numero 8 per le signorine è una maschera per rossetto, ha una forma un po', si presenta in modo particolare perché è una specie di museruola con questo spazio, cioè, chi l'abbiamo intanto un pochino partito per, non lo so, però c'è l'accetto rosa che è bello, cioè, nel caso in cui non è nel caso in cui una donna non avesse voglia di, non so, cioè, magari non c'ha chi non sa, chi non ha la mano ferma, che magari si sbaglia, non è la mano ferma, perché non è la mano ferma, si mette questa mascherina, no, sconsiglia lo scotch, sai, quello tipo di carta, no? Ragazzi, e l'altro, perché pure i pittori fanno così, quello è lo scotch degli imbianchini e poi passi col pennello e quindi prossima invenzione, lo scotch da rossetto, perché tu metti queste strisce e poi le... Evidentemente, sai, rotoli proprio a forma di rossetto, tu stacchi un pezzo, tacca, lo attacchi e via, abbiamo colpo di scena. Neanche lo smalto, visto, per le unghie, sì. Cioè ci attacchi direttamente lo smalto sopra, cioè sagomato, tacchi, tacchi. È dura no, ragazzi, Sì, tutto ormai. Voglia, forte, non ti credo. Poi con gli stort direttamente. Perché mi hanno fermato al centro commerciale. Bene. Vai. Ragazzi, era cosa mai. Io sono sua madre, sua moglie sa tutto. Era bello dire queste cose in radio. Diciamo che ci direbbe perché. Abbiamo detto che ascoltano le casalinghe di Condofuri. Sì. Si stanno intrigando. Ragazzi, alla numero 7 un accessorio veramente osceno, praticamente il metti gocce. Cioè praticamente questi occhiali con due con gli imbuto. Imbutini dove tu vai a versare quello che devi mettere. Già sai l'agonia che ti viene incontro. La goccia. Sì. Ma immagina la goccia che scende più o meno per la stessa. No! Sì. Tu sei. Ah! Piangi. Finché arriva la porzione di cotta. La faccia è carica. Di una. Devo fare con l'altro. Inventato da Kubrick, possibilmente. Dai Argento. Ragazzi, al numero 6, pantaloni da picnic. Quindi questi pantaloni, questi jeans che hanno tipo i tuoi, quelli viola. Abbiamo anche una che praticamente non l'avevo mai pensata questa. Pensaci, pensaci, hanno questa parete frontale tra le gambe. Quindi quando uno si va a sedere, questa tessuto si diventa tovaglia. Ne ho parecchi di questi pantaloni, ma non l'avevo mai pensata. È bello, voglio dire. E adesso invece bisogna pensarci, perché voglio dire, tu vai a fare un picnic, ti dimentichi la tovaglia, cioè hai la fidanzata che ha questi pantaloni, scusa tesoro, mi fai dare un morso al panino? No! E la utilizzi. Quello è quando ti alzi, però tutte le macchie dovresti spiegare. Infatti è molto, molto preoccupante. Ma ragazzi, alla numero 5 ancora, penso si possa dire per il settore femminile, questi ombrellini da scarpe. Quindi questa ombrelli che hanno la punta che si aggancia con la punta della scarpa e proteggono la scarpa dalla pioggia, perché quando uno ha una scarpa importante. Scherzi. E poi perché la può stangare? È giusto, no, ovviamente la vai a evitare. Tu con la scarpa importante va in giro con ombrelli. No, lo sai, quegli ombrelli in base all'acqua si girano, sono proiettici e sociopatici. Ombrellino sociopatico, spettacolo. Ogni scatto di a modificarsi, perché voglio dire, è giusto, tu compri una scarpa, che ne so, di Valentino fa scarpe, non sono fuori. Valentino fa una scarpa e la compri e devi mettere l'ombrello per proteggere. Compri una scarpa di Cesare Paciotti, per dire, e gli metti l'ombrello. No, non la esci neanche dalle scatole, vai in giro con le scatole ai piedi, perché guai, si rovinasse, eccetera. Ma per deve accelerare, scherzi. Si deve fare assolutamente. Alla numero 4 ci sono le scarpe per gli ombrelli adesso. Scarpe per ombrelli, quasi. L'ombrello totale. Questo ombrello con una parete di plastica trasparente intorno. Questo è molto carino. No, è la tipica doccia di carnevale. Scusa. Ma è un gazebo. Sì, praticamente sì, un gazebo. Ma dire che questo è un'invenzione giapponese. Non so perché, ma so che è un'invenzione giapponese. Sì. Ma sono tutte giapponese, non l'hai capito. Più o meno sì, e praticamente questo qua permette di ripararsi totalmente dalla pioggia e anche di fare un po' il sociopatico, perché comunque vai girando sotto non questo. Puoi entrare il piccolo e poi non lo prendi manco trasparente, lo prendi colorato con una striscia soltanto per gli occhi trasparenti. Sei tutti lontani per guardare il mio. Non perché questa è perché la mangiata del burka, cioè no. È vero. No, è troppo esagerato. Ma comunque, alla numero 3, ragazzi, per gli accaniti amanti degli animali, l'intimo per animali. L'intimo per animali è questa specie di... Giustamente anche cani e gatti devono essere un attimo tutelati in quel frangente lì, e quindi si lega alla coda e va a coprire l'intimo d'occhi indiscreti. Certo. E la privacy. Però poi quando fanno bisogno in giro... Non gli raccoglie nessuno. Però ci mettono le mutande. Pensa, No, non hai capito, non è mutanda. No, è un copri. È un oggetto tipo a forma di fiore che copre la parte intima. Tu la leghi alla coda e questo copre il sotto. Sento dal bello della macchina, immagino uguale. Tutti è ancora peggio di quello che immaginavo. È una specie di... si spoglia col perizoma e il cane lo copri, perché è una specie di censura portatile per cani. Gli metti il talloncino, il bollino rosso. C'è la forma di quadratino nero. Non lo voglio sapere, meglio non saperlo. Alla numero 2, ragazzi, indispensabile per le prossime vacanze di Natale, necessario l'appallottolatore di palle di neve. creare palle di neve con questa specie di coppetta da gelato gigantesca, sarà un momento perché ti metti là a crearle. E poi ti metti di lato e poi te le vendi. Che le fai? Gratina, bravo. Poi ce l'ho pallette sopra di neve già fatte, utilizzabili anche per questi scopi. Ma chi ci ha pensato? Questo sicuramente giapponese. Andava una battaglia di palle di neve, non voleva restare indietro con le munizioni. Zitto. Gli altri facevano. E lui. Giustamente così. Ma ragazzi, al numero uno, la vera invenzione inutile della storia, e questa è un colpo di scena, penso unico al mondo, perché ci vuole anche il coraggio di indossare una cosa del genere. Da domani tutti in giro con questo. Assolutamente. Sicuro. Io che sono uscito da poco da un raffreddore. Carta, un portarotolo per il naso. Quindi alla fine questo portarotolo che si lega sulla testa fa scendere il rotolo di carta sulla faccia, dove uno si può detergere e asciugare il naso. Dalla testa di cazzo. Faccio da culo perché ce la faccio proprio, quindi. Le ragazze hanno detto No, ma credo che se la mettessero qui, sai, al contrario. Tipo cosa, San Bernardo. Da sopra, perché così può essere anche utile per il sudore, certo. Per tutto. Però meni da una parte all'altra. Le porte sono un problema. Da sbattere in maniera molto ambigua. Quasi. Non buttare la cartina, la carta però pulita, che non è il caso. Ragazzi, c'è anche chiocciolabac.it. Qual è l'invenzione che avete trovato più inutile nella vostra vita? Qualcuna? Se stesso? Qualche invenzione che. Invenzioni inutili. Andrea, c'è quanti due che è una cosa inutile. Non mi è neanche una, questo è bello. I giapponesi hanno fatto a centinaia di invenzioni inutili. Ovunque. Però non mi viene in mente neanche una. Ah sì! La protezione suprema ancora suprema contro la pioggia. Una sfera. Vedete, deve andare in giro circondato da una sfera fatta di plastica, trasparente. Perché? In questo modo non ti bagni completamente. Cioè, tu immagini questa sfera che parte dalle caviglie e ti copre completamente. Potessi rotolare. No. Sì, poi vincere con la palla, ammazzavi le persone. È una cosa meno. Per giocare da voi in strada. Tu cominci a correre e tu. Beh, American Gladiator, tipo che c'era. Bello, inventatelo perché io lo comprerò. Io psicologico sul fatto di dire ancora sei grasso, devi dimagrire. Sì. Datti più volume. Devi comunque fare una corsetta in più. Io come invenzione, aspetta, non è venuta una in mente. L'airbag da bicicletta. Invece di mettere il casco, adesso c'è un collare. Cioè, l'ho visto. È una cosa inutilissima. Ok. Ha un sensore che registra i tuoi movimenti. Se i tuoi movimenti cambiano all'improvviso, quindi lui, secondo lui, stai cadendo. Ok. Si gonfia e ti copre la testa. Bellissimo. Bellissimo, niente. È molto bellici, ti chiamo. Perché tipo tu. Ciao, boom. Tu stai correndo, poi. Ah, devo girare. Giri, quello segnala la. Sì. Tu pensi se è il sensore di qua? Ma che c'è figata? Al MotoGP per evitare. Sì. Una sorta di airbag. Sì, volevano. Ma se prendessero le sfere per criceti giganti, la carota fallirebbe. Cioè tutti i traghetti, tutti le scarpe. Io ti ci vedo fare il cortile sull'acqua per 3 km. Sì, certo, sì, senso. C'è mai provato. Guarda che d'estate ci sta sta cosa a mare. Ma perché tu ci metti delle palette sulla sfera, no? Così quando corri, le palette girano e tu vai avanti. Sì, ma come fai? No, o vuoi per il calcio è dritta, cioè, è una cosa mistica. Poi sbagli e ti ritrovi alle oli. Ti ritrovi alle oli in finale. Tu che sei in mezzo all'oceano, ci sono 40 perché è tutta la sfera. Ma ragazzi, ragazzi, ci confermiamo ancora una volta, un popolo di inventori, come vedete è ormai inutile fermarli, quindi chiediamo direttamente a chi vuole registrare queste idee, questi brevetti, di contattarmi. Se ne certo, facciamo una startup per parlare la palla per criceti, andare a Messina, che poi si perderanno sulle isole Eolie. Ma comunque ragazzi, adesso piccolo spazio musicale, ci ritroviamo tra poco. Vabbè. Facciamo subito l'uscita così. Bessie's got a secret in her room. Just a little something that the sea makes her do. Just a thing that lovers do. Looks just like another lady monk, but underneath she's happy, cause she just don't give a fuck. Now the sea don't look so blue. Living off just oxygen, feeding off the residue, memories of a pig taboo, doing things that lovers do. Dressing up in season, Bessie whispers, please just come up here and see me. Makes me uneasy. Bessie's got devices in her room, just a little something that can make her dreams come true, make the sky turn. Living on just oxygen, feeding off the residue, memories of a bit taboo, doing things that lovers do, dressing up in season. Bessie whispers, please just come up here and see me. Makes me uneasy. Ragazzi, questa regina che questa settimana che ci aspetta sarà veramente intensa, molto, molto... Questo per tutto, perché comunque avremo un concerto la prossima domenica in live. Assolutamente, portatemi del caffè, ne avremo bisogno. Questa è la cena regina, questa settimana ci è andata molto bene, però abbiamo mangiato e via dicendo, grandi presenze, grandi ospiti. E adesso un applausino a tutti. C'è anche il back.it per commentare questo e il back.it per seguire tutta la trasmissione e quello che succederà all'Aus. La settimana prossima, ciao!